Questa è Radio Isvara. மங்களம் சக்கரராஜாய மகனீய குணாப்தயே பத்மநாப பராம்போஜ பரிஷ்காராய மங்களம் காஷி விப்ரோஷகராய கல்யாண குணசாலினே மாலி பிரமதனாயஸ்து மகாதீராய மங்களம் மங்களம் ஜய மங்களம் மங்களம் ஜய மங்களம் கஜேந்திராஸ்திஹராயஸ்து கிராகதேவத்வகாரிணே தீநாதீஷ திரோதானகர்த்ரே தீப்தாய மங்களம் சித்ராகாரஸ்வசாராய சித்த நிர்வ்ருதி காரிணே நரகாசுரசம்ஹர்த்ரே நானானுபாய மங்களம் மங்களம் ஜய மங்களம் மங்களம் ஜய மங்களம் சண்டாஸ்ராஞ்சிதோர்தண்ட கண்டிதாமரஷத்ரவே சாமீகரநிபாங்காய சாருநேத்ராய மங்களம் சைத்யாசுரசிரோஹர்த்ரே சந்திராக்லாதகராய தே ஸ்ரீமதே சக்ரராஜாய ஸ்ரிதார்த்திக்னாய மங்களம் மங்களம் ஜய மங்களம் மங்களம் ஜய மங்களம் மங்களம் ஜய மங்களம் மங்களம் ஜய மங்களம் மங்களம் ஜய மங்களம் மங்களம் ஜய மங்களம் Radio Isvara vi invita all'ascolto di Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Quando parliamo di dare beneficio agli altri, di fare qualcosa per gli altri, noi dobbiamo fare un beneficio spirituale. E questo è il morale della favola. Ed era una cosa simpatica, i devoti si mettevano le parrucche, si vestivano non da devoti, con giacca e cravatta. Mi ricordo mio carissimo confratello, che ormai non c'è più, che ha lasciato il corpo Somaka Maharaj, che faceva quello che stava annegando. Arrivavo io che gli strappavo di dosso la giacca, ed era molto bello, molto dolce. E anche altre rappresentazioni teatrali che facevamo qui in questo posto. Il vicinato un po' si lamentava, specialmente i signori che ci abitavano qui, o anche quelli di fronte, sebbene c'è un po' di spazio, però si lamentavano perché noi alle 4:30 facevamo le nostre cerimonie. Le nostre cerimonie, che consistono di suoni, di campanelli e di strumenti musicali, di canti e di danza. Loro alle 4:30 sentivano tutto, e poverini, per 2 anni, per loro il sonno terminava alle 4:30, tanto che ogni tanto qualcuno di loro si faceva vivo, veniva a tempo, diceva: tanto non riesco a dormire, tanto vale che vengo a fare la cerimonia insieme. Nella villa vicino c'era un cane. I cani mangiano carne, eppure un giorno il vicino che abitava lì vennero al tempio e disse: smettetela di dare il vostro cibo al cane, perché adesso lui non vuole più mangiare carne, è diventato vegetariano, un cane lupo alto così, che era diventato vegetariano. A forza di dare Krishna Prasada, questo cane si era purificato e la carne non la voleva più vedere, voleva mangiare solo il nostro Prasada. Erano tutti amici comunque, perché borbottavano un poco per il rumore, però in fin dei conti i devoti sanno farsi voler bene. Queste sono alcune storie. Che dire, io non ho incontrato Srila Prabhupada qui a Roma, io ho incontrato Srila Prabhupada in Francia, quindi non posso raccontarvi tante storie che riguardano Srila Prabhupada qui a Roma, però posso raccontarvi come non ho conosciuto Srila Prabhupada a Roma. Bene, io da ragazzo vivevo non lontano da qui, credo che saranno a linea d'aria 300 metri, forse meno, ma mi davo qui. Tutti i giorni andavo al lavoro, avevo 18 anni, andavo al lavoro e un bel giorno, attaccato all'autobus, alla sbarra in alto dell'autobus, l'autobus si ferma. A Roma tutte le mattine c'è un traffico terribile, non, certe volte stai fermo anche 15 o 20 minuti. Mi fermo, autobus è pieno, non ci si può muovere, non si può fare niente, non si può neanche cadere, in fin dei conti reggersi in quelle circostanze è solo un pro forma, perché come fai a cadere? Si ferma l'autobus alla grande piazza di San Giovanni e davanti a noi c'è un grosso lampione, grande così. Attaccato al lampione c'era un poster di Srila Prabhupada, con il viso di Srila Prabhupada in bianco e nero. L'autobus si fermò per 10 o 15 minuti e null'altro potevo fare io, anche fisicamente, non potevo, anche volendo, spostarmi. Non potei fare altro che guardare il viso di Srila Prabhupada di fronte a me. Io ero alla ricerca, ma ero un po' deluso dagli yogi indiani che venivano. Non mi piacevano più, ne avevo incontrati tanti, qualcosa non funzionava. Eppure il viso di Srila Prabhupada era diverso. E guardando il mio maestro spirituale, il mio eterno maestro spirituale, in viso, io ho avuto immediatamente la certezza che lui era il mio eterno maestro spirituale. E ho avuto un'esperienza fortissima, molto emotiva, guardando il viso di Srila Prabhupada. E in quel momento ho detto: tu sei il mio eterno maestro spirituale, per favore accetta. La storia è lunga, sono storie di giorni e settimane. Comunque, conobbi gli Hare Krishna, ma io non sapevo che Srila Prabhupada, il mio maestro spirituale, era il maestro spirituale degli Hare Krishna. Un giorno venni a fare visita agli Hare Krishna, entrando dentro, vidi il Vyasa-san con l'immagine di Srila Prabhupada sulla destra e ho detto: allora gli Hare Krishna vanno bene, perché Srila Prabhupada è il loro maestro spirituale. Dunque, che altro dire? Sono felice di essere qua, magari in altre circostanze racconteremo di più. Ora voglio farvi vedere un momento il tempio visto da un'altra prospettiva, dove dalla prospettiva da cui la vidi io la prima volta che venni qui. E un giorno un mio amico mi disse: vieni a visitare il tempio? Io gli dissi: dov'è il tempio? Lui mi disse: via Mistretta, numero 2. Io via Mistretta la conoscevo benissimo, perché vedete in lontananza casa Santa Giacinta, mi sembra che ora si chiama, però quella una volta, circa 30 anni fa, era una scuola elementare dove io da bambino andavo a scuola. E quindi via Mistretta la conoscevo benissimo, perché per anni ci passavo tutte le mattine. Mi sembrava strano che il tempio potesse essere qui, perché per costruire io avevo l'idea, la certezza che un tempio dovesse essere qualcosa con un'architettura indiana, non avevo visto lavori in corso. E mi pareva un po' strano, sono venuto qui, non ho visto la costruzione indiana e ho detto: vabbè, allora ci sarà qualche errore, forse non è, ho capito male, non è via Mistretta. Sono tornato dal mio amico che si chiamava Pino e gli ho detto: Pino, ma dove sta questo tempio benedetto? E lui mi dice: no, via Mistretta, via Mistretta, allora portami in città. E una bella sera l'ho convinto a Pino e imbocchiamo la strada che ora state vedendo e ho sentito i campanelli dell'Arctic, non sapevo ovviamente cosa era la campana nel latte, che in lontananza sentivo un fortissimo profumo di qualche tipo di dolce indiano speciale, particolare, e ci siamo lì, mi ha detto corri, corri, che è cominciata già la cerimonia. Io non capivo né perché devo correre né per cosa era questa cerimonia, però ho detto vabbè, corriamo, e ci siamo fatti questo pezzo di strada di corsa e siamo entrati nella porta, e per la prima volta ho visto Sri Sri Gauranithai adorati dai loro fedeli devoti. Volevo chiedere una cosa, volevo chiedere l'età media dei devoti che entravano nel tempio all'epoca. Era piuttosto giovane, io personalmente avevo 18 anni e poco più, e c'era un devoto di 16 anni, 20 anni, 21 anni, l'età media era molto bassa. Credo che il presidente del tempio ne avesse 26, credo, ed era ritenuto una persona molto anziana. E quando cominciarono a venire qualcuno altro che aveva qualche anno in più, erano tutti contenti. Ho detto, finalmente le persone anziane cominciano a interessarsi alla presenza di Krishna, no? Sutta Ligra divenne devoto che credo di avesse 23-24 anni. Tutti, ah ecco, adesso sì, stiamo entrando nella cosa. Erano tutti molto giovani e molto entusiasti, molto attivi, riusciamo a fare un sacco di cose, perché eravamo giovani e entusiasti. Volevo sapere anche l'estrazione sociale di questi ragazzi, se era diversificata o venivano più o meno da una determinata condizione sociale. Diciamo. Credo che ci fosse un po' di tutto. Personalmente ero un figlio di un impiegato, mia madre era casalinga. C'era qualcuno che veniva da esperienze materiali forti come quella della droga, è normale, no? Perché se uno sta male, soffre dei problemi, è normale che cerca delle soluzioni, delle alternative. Ma poi credo anche che le alternative le cerchino un po' tutte, perché la vita materiale non è mica solo brutta quando ci si droga. La vita materiale, forse la vita materiale definirla brutta forse non è solo. La vita materiale non è completamente soddisfacente, non soltanto quando ci si droga, quando si hanno problemi di salute o economici. La vita materiale è per natura insoddisfacente, quindi anche le persone più ricche, non so, benestanti, cercavano anche loro la coscienza di Krishna, e nel tempio venivano non soltanto persone giovani, ma anche quelle meno giovani. Certo, le persone meno giovani hanno famiglia, normalmente hanno lavoro, avevano di conseguenza meno possibilità di abbandonare tutto e venire a vivere al tempio, perché allora la filosofia era questa. Allora, sebbene non si escludesse che una persona potesse essere devota fuori dal tempio, però diciamo che si spingeva molto sul fatto di venire a vivere al tempio. Infatti era rarissimo che si dava iniziazione a persone che non avessero chi non viveva qua, era piuttosto difficile che prendesse iniziazioni o che venisse. Poi le cose sono cambiate, per fortuna siamo cresciuti, maturati, adesso la filosofia è un pochettino più matura. Per acquistare i libri esclusivi di Manonath Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. Hare Krishna a tutti, è il mio secondo hangout, cioè la diretta video su Google Plus. E oggi è un giorno molto particolare per noi, è una bella giornata, è la festa di Janmashtami, la festa dell'apparizione di Sri Krishna, che è venuto in questo mondo più di 5100 anni fa. Parecchio tempo fa. Leggerò qualcosa, non staremo insieme molto tempo perché qui sono l'1:32 e vi sto parlando. Beh, prima di tutto io sono Manu Nabas e vi sto parlando da San Juan in Porto Rico. E vediamo di trovare il file che vi volevo leggere. Vediamo. Eccolo qua. Dunque, va bene, intanto perché Krishna è apparso su questo pianeta? La Bhagavad Gita lo spiega ed è Krishna stesso a dircelo. Paritranaya Sadhunam, Dinasaya Chagustritam, Dharma Samstapanardaya, Sambhavami Yuge Yuge. Sambhavami Yuge Yuge significa che io, Krishna, appaio in maniera regolare. Di Yuga in Yuga io appaio. E per le ragioni che ha spiegato, e cioè Paritranaya Sadhunam, che significa dare protezione o piacere ai suoi devoti, e questo lo ha fatto principalmente, semplicemente facendo quello che ha fatto. E cioè ai devoti piace così tanto parlare di Krishna, e quando Krishna fa qualcosa, i devoti hanno ragione e materia, diciamo così, per parlare di lui e sono contenti. Chiaramente la situazione, la storia è molto più ampia, più complessa. Adesso, oggi magari non abbiamo tempo per raccontarla tutta, però la potete trovare nel libro di Krishna di Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seconda ragione è Vinashaya Chagostritam. Vinashaya significa distruggere, togliere di mezzo. I Duskritina, le persone demoniache, le persone che vanno contro i principi della spiritualità. Ora, questo andare contro i principi della spiritualità può essere non violento, e allora ognuno ha diritto di credere come non credere, però se questo ateismo, questo materialismo, si manifesta con la violenza, e cioè che qualcuno cerca di impedirti di fare la tua vita religiosa, la tua vita spirituale, allora i devoti hanno diritto a fare qualcosa, perché la prepotenza non può essere accettata. Così al tempo di Sri Krishna non era soltanto una questione che c'erano gli atei o quelli contrari alla coscienza di Krishna, è che c'erano proprio delle persone che impedivano che i devoti facessero la libertà è una bella cosa. Dharma Samstapanardaya. Dharma Samstapanardaya significa ristabilire i principi della religione, ristabilire i principi della spiritualità. Quindi Krishna è venuto, ha parlato alla Bhagavad Gita e ha ristabilito i fondamenti della coscienza di Krishna. E quindi Paritranaya Sadhunam, dà piacere ai devoti, protegge i devoti, Vinashaya Chagustritam, rimuovere la presenza degli atei, e Dharma Samsatanartaya, ristabilire i principi religiosi. Questi sono i motivi principali per cui Krishna è apparso, no? In questo mondo. Dunque, vediamo, adesso io volevo leggervi, io fra qualche ora, stavo dicendo prima, non ho finito la frase, che qui sono le 1:35, perché vi parlo da San Juan in Porto Rico, ci sono 7 ore di differenza, fra qualche ora devo andare al tempio per parlare di Krishna, cioè devo fare la lezione al tempio, a raccontare l'apparizione del Signore Krishna, quindi devo prepararmi, non posso stare a lungo. Quindi ho scelto qualcosa che Isho ha pubblicato l'anno scorso, che è una specie di riassunto molto breve dell'apparizione del Signore. Chiaramente non è tutto. però in qualche modo mi sento di celebrare in lingua italiana, Gianmarco, stammi leggendovi qualcosa. Sebbene non vivo in Italia da tanti anni, però ci sono nato, un vincolo c'è sempre, mi fa piacere, sento quasi mio dovere di ogni tanto di aiutarvi, anche se voi italiani non avete certo bisogno di me, ci sono tanti bravi devoti in Italia. E quindi andiamo a leggere. Quando tutto fu in armonia, Sri Vishnu, situato nel cuore di tutti gli esseri, apparve nelle tenebre della notte nella sua forma di persona suprema. Apparve di fronte a Devaki, bella come una dea, e la sua venuta, in quel momento propizio, fu come il sorgere della luna piena. Coloro che obietteranno che Sri Krishna apparve l'ottavo giorno della luna calante, in un momento in cui non poteva essere piena, devono sapere che Sri Krishna apparve nella dinastia che aveva come primo anello la luna in persona. Così, anche se quella notte alla luna avrebbe dovuto mostrare solo uno spicchio di sé, per la grazia di Krishna apparve in tutto il suo splendore, inondata di gioia al pensiero che il Signore entrava nella sua stirpe. In quel momento, comunque, all'est come all'ovest, al sud come a nord, regnava un'atmosfera di pace, di prosperità. Nel cielo si vedevano stelle favorevoli e sulla terra, in tutte le città e i villaggi, nei pascoli e nella mente di ognuno, si manifestavano segni di buona fortuna. I fiumi erano gonfi d'acqua e i laghi imperlati di fiori di loto. Le foreste erano popolate di uccelli e pavoni meravigliosi, che con le loro compagne aprivano le danze tra i gorgheggi di quei cantori di bosco. E su tutto si spandeva una brezza profumata di fiori, creando una sensazione gradevole. I Brahmana, che solevano offrire nel fuoco, trovarono che la loro dimora poteva di nuovo accogliere queste offerte, dopo che il fuoco sacrificale era stato quasi escluso dalle loro caute a causa delle persecuzioni dei re demoniaci. Impedita l'offerta di sacrifici, la tristezza si era insinuata nella loro mente, nell'intelligenza e negli atti, ma poco prima dell'apparizione di Krishna, quando i Brahmana sentirono risuonare nel cielo le profonde vibrazioni spirituali che annunciavano l'avvento di Dio, la loro mente si immerse di nuovo nella gioia. Come vedete qua, Vinashaya Chadushkritam, non era soltanto che c'erano delle persone che non credevano, c'erano persone che violentemente impedivano ai Brahmana, per esempio, di fare i loro sacrifici. E quando Krishna è apparso, tutti i devoti si sentirono molto felici, e quindi Paritranaya Sadhunam, vedete come l'apparizione di Krishna provoca gioia nel cuore di coloro che sono spiritualisti. Gli abitanti dei pianeti Gandharva e Kinnara si misero a cantare e gli esseri di Siddaloka e Charana, dai loro pianeti, cominciarono a offrire preghiere a Dio, la persona suprema, mentre sui pianeti celesti gli angeli e le loro compagne, a cui si erano unite le Apsara, aprirono le danze. Soddisfatti, i grandi saggi e i Deva versarono piogge di fiori. Dalle spiagge giungeva lo sciacquio delle onde e dal cielo, sopra le acque, il tuono riecheggiava piacevolmente tra le nuvole. Quando tutto fu in armonia, Sri Vishnu, situato nel cuore di tutti gli esseri, apparve nelle tenebre della notte nella sua forma di persona suprema. Apparve di fronte a Devaki, bella come una dea, e la sua venuta in quel momento propizio fu come il sorgere della luna piena. Questo paragrafo è una ripetizione. Mi pare comunque molto bello, leggiamo di nuovo. Coloro che obietteranno che Sri Krishna apparve l'ottavo giorno della luna calante, in quel momento, in un momento in cui non poteva essere piena, devono sapere che Sri Krishna apparve nella dinastia che aveva come primo anello la luna in persona. Così, anche se quella notte la luna avrebbe dovuto mostrare solo uno spicchio di sé, per la grazia di Krishna apparve in tutto il suo splendore, inondata di gioia al pensiero che il Signore entrava nella sua stirpe. Dal libro di Krishna di Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il nostro amato maestro spirituale e fondatore del movimento Hare Krishna. Sto continuando a ricevere greetings, auguri di un felice Jammastami. Vi leggo questo. Sì. Cari devoti, well wishers, non ho mai capito come si traduce in italiano. Vi auguro un felice Jammastami, possa il Signore Krishna darvi abbondante come in una doccia, in una grande pioggia, tutte le benedizioni su di voi. È nostro piacere di invitarvi, la nostra famiglia, i vostri amici nel luogo sacro di Vrindavana. Durante Jammastami le intere città si immergono nello spirito della devozione. Quindi venite, state in Bhakti Dham, Sri Vrindavana Dham, e godete Jammastami, la festa Jammastami, nel posto di Krishna. Warm regards, Bhakti Dham, Hare Krishna. Bene, allora io vi lascio dopo aver letto questo e mi auguro che siate stati al tempio oggi, almeno i devoti, insomma. Tra l'altro ci vediamo presto, adesso oggi è della settimana, è giovedì, domenica alle ore 12 italiane, sarò in diretta per rispondere alle vostre domande e avremo occasione per approfondire di più i temi della coscienza di Krishna. Hare Krishna a tutti. Avete ascoltato Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del Centro Vaikunta, www.centrovaikunta.com. Buon ascolto di Isvara Radio e Hare Krishna. Dov'è il cellulare? Là. Adesso devo fare qua. Ecco, ci stiamo. Ricominciare. Hare Krishna, buonasera a tutti. Hare Krishna. Cominciamo a cantare. Cominciamo a cantare. Cantate con noi. Aspetta che magari Federico ti metti muto perché ti... non si sente. Non era con i katas prima. Non ci sono i katas. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami. riesci a sentire, Federico? Hare Rama. tolto la sua sciarpa. iPhone. Aspetta. Pubblicità per iPhone. No. iPhone. Anni. Disattiva l'anno. Prega. Oma Gyana Tamaranda Sya Gyana Jana Shalakaya Chakshuran Jitam Jena Tasmai Shri Gravi Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagachatam Sahagana Raghunatham Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Negorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sorpresa! Felice. Oh. E forse non. Stai mangiando. Aspetta che. L'audio. Aspetta che attivo l'audio. Ah, eccolo lì il maggiordomo. Devi attivarlo tu l'audio. Attiva l'audio, Felicia. Ecco, Aribol. Non si sente. È attivato. Parla. No, si vede che... Vabbè, dai. L'importante è vedervi, non vi sentiamo. Indiviso. Sparito. E si vede che la... Ok, stasera continuiamo la lettura del libro di Krishna. Cerchiamo di fare un po' più interattivo stasera, se possibile. Chi c'è? Avete tutti un libro di Krishna con voi? Chi è con Zoom? Non ce l'hai un libro di Krishna? Sì, io ce l'ho. In pochi potete aprire l'audio, basta che non si fa rumore. Aprite l'audio. Stasera stiamo finendo la liberazione del demoniaco Baumasura, che sta combattendo, poi è sconfitto e poi adesso stanno offrendo i vari preghieri. Eccolo qua. Haribol! Ho capito, la Feli c'ha un telefonino da 50 euro, scusate. Arrivo, il Krishanki! Dove sei? Dov'è che siamo? Questa è una buona domanda. Dove stai? Dove sei, ha detto. Dove sei? Siamo sparsi per tutto il mondo come Dio, in ogni parte del mondo, ma non siamo Dio. Ciao Fede, arrivo! Ciao, arrivo! Come stai? Che bello bene, vedervi. Bene. Molto bene. Bello vedervi, dai. San Tropez. Sì, oh. Al caldo. Arrivo Daniele, arrivo, come stai? Arrivo, tutto bene. Madonna, bene. Non così composto, sei un po' più... Noi siamo un po', come dire, entusiasti così. Fuori dalle righe. Scusate, col nostro entusiasmo abbiamo rotto... il momento magico del libro di Krishna. Eccoci qua, in prima linea. Siamo allegri, non volevamo essere troppo seri o triste. Ok. Allora, siamo a pagina 50 di questo libro, non so, quello nuovo. Dagli il titolo. Il titolo del capitolo è 58, il numero 58, La liberazione del demoniaco Baumasura, che è stato sconfitto e adesso ok, e adesso c'è la terra, la madre terra, che sto offrendo a padre davanti al Signore e fare tanti regali, perché adesso è concluso la storia di Baumasura e adesso stanno venendo avanti tutti a offrire preghiere, regali al Signore. E vedremo che il libro di Krishna è pieno di preghiere, praticamente tutta la filosofia dello Srimad Bhagavatam viene rispiegato nella forma di preghiere offerte da Indra, Kura, Brahma, di tutti. Poi vedremo più avanti, Veda personificate, faranno 60 pagine di preghiere. Questi sono vari tipi di preghiere. Sono preghiere offerte per avere qualcosa in cambio, o preghiere offerte per glorificare il Signore, preghiere per protezione, tanti tipi di preghiere. Adesso vediamo, cominciamo all'inizio qua le pagine 50. Che è più o meno metà del capitolo. Comincia con la parola la terra, apparve allora davanti al Signore e gli offrì una ghirlanda di gemme vaijayanti. Restituì gli scintillanti orecchini di Aditi che erano fatti d'oro e pietre preziose, perché questa Baumasura aveva rubato gli orecchini da Aditi, che era la madre dell'essere celeste. e il parasole di Varuna insieme ad un altro gioiello che presentò al Signore. Poi l'Etero offrì le sue preghiere a Dio, la persona suprema, e al Maestro del mondo, che è continuamente adorato dai Deva più elevati, e prostranandosi ai piedi del Signore in un'intensa estasi devozionale, pronunciò queste parole. Offrimi rispettoso omaggio al Signore, Maestro di tutti i Deva, a Lui che porta i quattro simboli, la conchiglia, il disco, il fiore di loto e la mazza. Cosa servono questi quattro articoli che porta Vishnu nei suoi quattro braccia? Sapete? Chi lo vuol dire? Si può parlare? Va, aprire la... l'audio. Deve sbloccare l'audio. E chi vuol parlare? Chi no? No. Vuole parlare? Loro sono due per i devoti e due per i asura, i demoni. Quali sono per i devoti? La conchiglia e il fiore di loto. Bravo. Federico. Conchiglia e fiore di loto, quelli che ci benedice. Ci dai sicurezza. Quando Krishna e Arjuna hanno suonato la loro conchiglia all'inizio della battaglia di Kurukshetra, tutti i Pandava hanno preso forza e fiducia che ce la facciamo vincere. E tutti gli altri, Duryodhana e i compagni di Dhritarashtra, tremava di paura. E per i demoni c'è la mazza. Shpong. Che viene usata spesso nel libro di Krishna. Nel libro di Krishna vedremo spesso. Ma più che altro viene utilizzato da Balaram, che anche lui c'è. Lui infatti, Balaram, è il maestro della lotta con la mazza e aveva insegnato a chi? Che è un po', un po' strano, uno non aspettava, che era il maestro della lotta con la mazza di... Duryodhana. Ma non risponde. Duryodhana. Infatti, quel qualo avevano tutti un po' di paura quando Duryodhana e Bhima combatteva con le mazze e erano pari praticamente. Nessuno riusciva a prendere il sopravvento sull'altro. In mezzo alla battaglia appare Balaram e tutti stavano zitti perché avevano paura che adesso Balaram prende la parte di Duryodhana, perché Duryodhana era un bravissimo studente di Balaram e così era un po' caro a Balaram. Rende la storia un po' più elaborata, perché Balaram è Krishna, Dio stesso, e Duryodhana era il cattivo. Così questo punto è reso un po' più interessante. E poi il disco, poi quello lo vedremo Krishna utilizzare varie volte nel libro di Krishna. Chi è la più famoso? Cosa più famosa? Che è stato ucciso dal disco di Krishna nel libro. Shishupal! Brava! L'unico che so. 5 euro! Cento. Stasera giochiamo a rischio tutto. Shishupal. Poi Krishna aspettate che era fatto, mi sembra che è arrivato a 100 offese. Sì, lui faceva sempre offese, poi arrivava alla 29esima e si fermava, no? Perché se arrivava a 100, poi Krishna... 99esima. Io cosa ho detto? 99esima voleva, allora hanno capito. A 99. E poi si fermava. Invece quel giorno ha perso proprio le staffe, ha superato i 100 e Krishna dice, ok, hai rotto la regola, adesso... Infatti a Villa Vrindavana c'è il famoso quadro dove sta arrivando il Sudan Chakra al collo di Shishupal e questo sta indietreggiando con una paura terribile perché si è reso conto che ha superato il numero 100 prima di prendere respiro. E ricordiamo che Shishupal viene liberato. Alla fine. Perché alla fine i quattro simboli sono uguali, nel senso. È sempre misericordia. Sempre misericordia per i devoti o per i demoni. Quando viene da Krishna è sempre misericordia, anche dai suoi devoti. Infatti oggi ho tradotto una lezione di Radhana Swami molto simpatica, dove Pundarika Vidyanidhi aveva fatto una specie di offesa, no? Avevano organizzato un festival bellissimo a Jagannath Puri. Fanno ogni anno le solstice invernale. Inizio di inverno. Sì, esatto, 21. Come il 21, no? Per quello l'ha raccontata. E gli offrivano questi vestiti, varie stoffe. E invernali, esatto. Sì. E Erika Vidyanidhi notò che gli avevano offerto dei vestiti, però erano ancora... Sapete in India quando vendono i sari pieni di amido, duri, no? Che li devi lavare in lavatrice, perché sennò vai in giro così. Allora... Li hanno offerti alle divinità e poi avevano fatto l'artic, le preparazioni, i canti, era stato bellissimo come festival. Però Pundarika aveva notato che avevano offerto questo vestito che non era stato prima lavato. Allora disse a Swarupa Damodara, ma perché gli hanno offerto il vestito? Dovevano lavarlo, ma è contaminato, questa è un'offesa, non si può offrire un vestito pieno di amido al nostro signore Jagannath, no? E Swarupa Damodara rispose, ma se c'era il signor Chaitanya e non ha detto niente... Chi sei tu? Bene, no? Perché devi dire qualcosa tu. Ma lui continuava, perché però non si fa così, bisogna lavarlo, perché se lo tocchi sei considerato contaminato. E lui continuava a dire, guarda che comunque il festival è stato bello, è andato tutto bene, non ti fissare su sta cosa. Allora Pundarika dice, sì, hai ragione, è vero. Vanno a dormire e la notte Pundarika sogna, vede Krishna e Balaram che gli vanno incontro arrabbiatissimi. Cominciano a schiaffeggiarlo da ogni parte. E in più avevano anche gli anelli al dito, non è che lo stavano schiaffeggiando così. Insomma, allora Pundarika chiama aiuto, perdonatemi, cosa ho fatto l'offesa, scusatemi, perdonatemi, e fa no, il tuo perdono non ci sarà, e continuano a picchiarlo, no? A un certo punto lui veramente chiede perdono e dice grazie. Questo durante il sogno. Sì, nel sogno, tra virgolette. E poi Pundarika ringrazia e dice grazie che vi siete scomodati a venire a punirmi, perché dai, chi è che può ricevere una punizione dal signor Jagannath e da Baladeva? Non preoccupatevi, noi non la riceviamo, anche se facciamo l'offesa non ci arriverà così direttamente, indirettamente sì. E poi quando si sveglia proprio con tutte le guance gonfie. Allora poi va subito al tempio, aveva l'appuntamento con Swarupa Damodara, e Swarupa Damodara quando lo vede dice, beh, com'è che sei così in ritardo? E cosa hai fatto? Hai tutte le guance gonfie. Allora lui ha detto, guarda, stanotte mi sono venuti a picchiare Krishna Balar, Jagannath e Baladeva per l'offesa che ho fatto ieri, no? Allora Swarupa Damodara ai suoi servitori, perché ho fatto offese ai servitori di Jagannath e Baladeva. Allora Swarupa Damodara comincia a ridere, ha detto, ma tu sei il più fortunato di questo pianeta, non ho mai sentito un sogno dove il Signore stesso va a punire il suo devoto perché ha offeso i suoi servitori intimi, no? E questo è un tipo di offesa che comunque fatta da un devoto era un passatempo, però Maharaj poi dice che comunque bisogna stare attenti alle offese perché se il Signore non è contento, insomma. Volevo dire anch'io una cosa, che per il Ratha Yatra a Firenze si può ricevere una bella mazzata in testa da Baladeva. È vero. È bellissimo. Raccomando a tutti. Di riceverla ancora. Certo. Allora, che abbia la bontà di accettarlo, sua immagine, questa è sempre la terra. O Signore, Tu sei l'anima suprema e per soddisfare le aspirazioni dei Tuoi devoti discendi sulla terra nella forma di avatar, tutti spirituali e assoluti, e ogni volta perfettamente adatti ai desideri di adorazione dei Bhakta. Krishna appare nella forma che noi vogliamo servire, reciproca con nostra desiderio di amarlo. Un devoto vuole amare come bambino, come figlio, e Krishna parla in questa forma. Krishna reciproca con il tipo di amore che vogliamo offrire. Voi come volete adorare Krishna? Come vorreste adorare? Vorresti adorare Krishna. Come vostro figlio, come vostro amico, vostra madre. Krishna anche come figli. Che gli fai le coccole. È già una squaletta di baci, lei insegue tutti per abbracciare e baciare, quindi serve proprio Krishna averlo sempre sotto mano. Caro signori, il fiore di loto cresce dal tuo ombelico e una ghirlanda di fiori di loto orna il tuo corpo. I tuoi occhi si allungano come petali di loto, infinitamente piacevole agli sguardi di tutti. Sapevi che Krishna ha occhi come petali di fiori di loto che arrivano quasi all'orecchio. I tuoi piedi di loto, così dolci e delicati, sono adorati eternamente dai tuoi puri devoti. Essi calmano i loro cuori di loto. Essi calmano i loro cuori di loto. Tutto un loto. Senza fine ti offro il mio rispettoso omaggio. Perché lo loto? Perché sempre loto? Perché non viene mai toccato dal fango, pur nascendo dal fango non viene mai toccato, quindi l'analogia continua sempre? Sì. È impermeabile. Perché il fiore è più bello e poi impermeabile, sì. Poi cresce dal lago e poi può essere fango lì, ma anche se cade fango, acqua sul fiore loto non si attacca, si scivola via. È sempre puro, in quel senso lì. È sempre bello, se avete mai visto un fiore di loto sono molto molto belli. Sì. Non è il fiore magari più profumato, ma sicuramente è il fiore più bello. E lei continuò, la Madre Terra continuò i suoi preghieri, tu possiedi in tutta la loro pienezza la religione, la fama, la ricchezza, il sapere e la rinuncia. Di queste cinque perfezioni tu sei il rifugio. Benché tu sia presente in ogni luogo, sei apparso come il figlio di Vasudev. Abbi la bontà di accettare il mio rispettoso omaggio. Tu sei Dio, la persona suprema, suprema e originale, la causa sovrana di tutte le cause. Solo tua grazia è il ricettacolo di ogni conoscenza. Cosa vuol dire causa di tutte le cause? Qualcuno vuole elaborare? Questo viene menzionato spesso, cioè la causa di tutte le cause. Non parteciperete più, dice troppe domande. È il creatore di ogni cosa. Scusa? È il creatore di ogni cosa, e quindi ogni causa deriva da lui. Ogni cosa, sì. ogni effetto deriva da una causa, ogni causa deriva da Krishna. Noi siamo causati dai nostri padri e madri, loro hanno loro padre e madre. Quando vai indietro, la causa originale, che è senza causa. Questa è una definizione di Dio, che non c'è una causa dietro. Chi ha causato Dio? Nessuno. Perché lui è la causa di tutta la causa. Quando arriva al fino lì, questo è Dio. Ishvaram Paraman Krishna. Sarva Karana Karana. Felice? Sì? Avevi alzato la mano? No. Sembrava che... Mi sono solo grattata la testa. Attenta come si muove le mani, se no... Ok. Solo tua grazia è il ricettacolo di ogni conoscenza. Posso io offrirti il mio rispettoso omaggio, tu il non nato, sei il padre della manifestazione cosmica, di tutte le energie. Tu sei il ricettacolo e il rifugio. Grazie a te appare questo mondo di cui tu sei la causa e l'effetto. Perché l'effetto nel senso che è tutta l'energia di Krishna. Così è la causa, l'origine e anche l'effetto. Perché è tutto Krishna, nel senso è tutta sua energia. Gli esseri viventi, il mondo materiale è fatto dagli esseri viventi che sono piccole parti, particelle, i raggi o l'energia che emana da Krishna e l'energia materiale, l'energia esterna, messa insieme. E sempre appartengono da Krishna. Hai preso la frutta fredda, vedi? Sì. Ho mangiato qualche mandarino prima di cominciare. Caro Signore, le tre divinità, Brahma, Vishnu e Shiva, non sono indipendenti dalla tua persona. Quando l'universo deve essere creato, tu manifesti la tua forma di passione in quanto Brahma. Per mantenerlo, ti moltiplichi in Sri Vishnu, il ricettacolo di ogni virtù. E quando viene il tempo della dissoluzione, appare come Shiva. Stiamo leggendo molto riguardo Shiva la mattina. Chi ci collega la mattina, siamo proprio nella parte del discorso di Shiva o Daksha. Poi sappiamo che adesso, per le offese che Daksha ha fatto a Shiva, adesso Sati sta per liberarsi da questo corpo che è stato creato da Daksha, suo padre. Maestro dell'ignoranza, anche creando i tre guna, nei quali tu non resti mai intrappolato, come l'essere comune, tu rimani sempre sul piano spirituale e assoluto. In realtà, oh Signore, tu sei simultaneamente la natura materiale, il padre dell'universo e il tempo eterno che li ha uniti. Eppure tu trascendi sempre questi atti materiali. Senso, questa è tutta tua energia, tu hai creato tutto, ma allo stesso tempo tu personalmente sei al di sopra, al di fuori da tutta questa energia materiale e l'essere vivente. Tutto. O Signore, o Persona Suprema, so che la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, l'etere, i cinque oggetti dei sensi, la mente, i sensi e i deva, che le controllano, il falso ego, così come tutte le energie materiali, ogni cosa animata o inanimata, in questo mondo fenomenico, riposano in te. Poiché tutto è prodotto dalla tua persona, nulla può esserne separato. Ma poiché tu sei sul piano spirituale e assoluto, nulla di materiale può essere identificato con la tua persona. Questa è la famosa filosofia di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Qualcuno la sa che cos'è? Acintya, dirò una... Veda, Aveda, Tattva. Veda, Aveda, Tattva. Che vuol dire? Simultaneamente uno è diverso. Simultaneamente è tutto Krishna, è tutto uno, è tutta sua energia e... Simultaneamente Krishna è diverso, Krishna è la persona suprema. Cosa? Sembrava che metteva il marmellato su un pezzo di pane. Poiché tutto è prodotto dalla tua persona, nulla può esserne separato. Ma poiché tu sei sul piano spirituale e assoluto, nulla di immateriale può essere identificato con la tua persona. Perciò tutto è simultaneamente uno e differente da te. E sono certamente in errore quei filosofi che vogliono separarti dal tutto. Come quella che dicono, sì, c'è Dio lassù e lui è... come si dice con un orologio che li gira? Che dà la carica. Dalla carica all'orologio, l'ha lasciato lì e va avanti così. Invece è tutto, c'è solo Krishna, ma simultaneamente è diverso, è separato come persona suprema. E ci siamo noi individui, parte e particella di Krishna. E pian piano uno riesce a comprendere questa, la realtà, che include tutto. Ma non è tutto uno e si perde la personalità. È tutto uno, ma siamo simultaneamente. Siamo noi, cioè, ci siete voi e c'è Krishna, io la persona suprema. Sull'altare. Infatti abbiamo, noi stiamo guardando dall'altare con Gornitai, ci Shira Dushama Sunda, c'è Krishna. Caro Signore, sappi che questo ragazzo, Bhagadatta, è figlio di mio figlio, Bhumasura. Oh, questa era la madre di Bhumasura. Le orribili circostanze create dalla morte di suo padre l'hanno scosso profondamente. E ora è molto spaventato e confuso. Io l'ho condotto davanti a te perché si abbandoni ai tuoi piedi di loto. Imploro tua grazia di accordargli rifugio e di benedirlo con i tuoi piedi di loto. L'ho portata da te perché sia liberato dalle conseguenze dei peccati di suo padre. E chi era suo padre? Bhumasura. Ah, ok, lui dice? Si chiama Bhagadatta. Ah, okay. Il figlio, il nipotino della madre. L'avrebbero portato dallo psicologo ai nostri tempi, invece lei l'ha portato da Krishna. Per abbandonarsi a Krishna, che ha appena ucciso suo padre. È appunto Sarva Karana Karana, la causa di tutte le cause, che risolve tutti i problemi. Dopo aver ascoltato le preghiere di Madre Terra, Krishna le assicurò che non avrebbe mai più avuto nulla da temere. Non aver paura. Disse Krishna Bhagadatta, poi entrò nel ricco palazzo di Bhumasura, dove trovò, cosa trova nel palazzo di Bhumasura? Chi non c'è il libro? Cosa trova? Il trono. 16.100 bellissime regine. Ah. Principesse. Beh, poi diventano regine. Diventerà, non ancora. Queste sono le famose 16.100 regine di Krishna, 108. Più loto che Krishna è sposato separatamente, Satyabhama, okay. Rukmini, Mitra, Satya, e Kalini. Invece in un corpo solo è sposato. E poi vedremo. Il cane. Come si chiama lui? Mirko. Mirko. Basta Mirko. Fatti vedere, dai. Fatti vedere, qua. Trovò 16.100 giovani principesse che l'Asura aveva rapito e tenuto prigionieri. Appena videro Dio, la persona suprema, le principesse rimasero affascinate dalla sua bellezza e lo pregarono di concedere loro la sua misericordia incondizionata. Si arrendono 100% a Krishna. Si prende rifugio in Krishna subito, senza esitazione. Prabhu, posso chiederti una cosa? Mm. Perché io i nomi degli Asura non imparerò mai. No, che forma aveva questo Asura? Perché non c'ero. Io un re, un kshatriya grande. Ok, e che cosa, di solito si dice che quando Krishna uccide uno di questi cattivi, uccide anche, cioè, è incluso nella lista. Questo era quando Krishna era a Vrindavan, questi sono i demoni che Krishna uccise a Vrindavan. Sì, ma dicevo... No, si diceva di solito che ogni asura che Krishna uccideva rappresentava qualcosa. Cosa rappresenta? Quelle storie, quelle che è scritto Bhaktivinoda Thakur, Racconto solo i demoni che sono stati usciti a Vrindavan. Infatti durante il lockdown li abbiamo citati tutti, però quando una volta che Krishna uscì da Vrindavana, Bhaumasura non è questa specialità di rappresentare qualche cattivo. Ok. Sì, perché a volte demoni ci si immagina con le corna, con i denti di fuori, ma non necessario. Anche Shishupala doveva essere anche lui molto bello, tra l'altro, però era un demone nel cuore. E comunque anche loro facevano la loro parte nei libri. Nei passatempi di Krishna. Per divertirsi. Sì. Subito nella loro mente decisero di accettare Sri Krishna come sposo e tutti pregarono la provvidenza di essere sposate da Krishna, tutti insieme. Tutti avevano lo stesso abbandono completo vedendo Krishna. Con serietà e sincerità offrirono il loro cuore ai piedi di loto del Signore, in atteggiamento di pura devozione. Come anima suprema nel cuore di ogni essere, Krishna capì quel desiderio incontaminato e le accettò tutte come spose, perché l'ha avvicinato con pura devozione. E l'ha accettato di reciprocare con loro con questo amore da sposa. Quindi fece in modo che ricevessero abiti e gioielli degni di loro, e ciascuno fosse portato su un palanchino fino alla città di Dwarka. Wow, però che opulenza! 16.100 palanchini, vuol dire 16.100 per 4 uomini, portare tutti questi palanchini. Oltre alla principessa, Krishna trovò nel palazzo ricchezze incalcolabili, cari, cavalli, gioielli e tesori, e 50 elefanti bianchi, ciascuno munito di 4 zane, che partirono dal palazzo dell'Azura diretti a Dwarka. Dove leggeva l'altro giorno che Dutta Karma è un discepolo di Prabhupada molto molto bravo, che è uno scienziato che l'hanno scritto un bellissimo libro, si chiama Forbidden Archaeology, archeologia proibita, che è un esposto che praticamente dimostrate che la teoria di evoluzione di Darwin è proprio falso, che ci sono tanti testimoni, cose scoperte, archeologico, che è stato filtrato, messo da parte in vari musei, che dimostra che proprio non era così, che proprio come scrive nei Veda. E c'era questa cosa, che c'era un'illustrazione di elefanti con 4 zane, un dipinto antico, se non mi ricordo, che dimostrava che come la cultura vedica c'era questi passatempi, ci sono passatempi descritti nei Veda di milioni di anni fa, quando c'era civiltà, esseri umani molto evoluti, contrario alla spiegazione che ci danno i nostri scienziati. Volevo fare una domanda. Sì, spero che riesco. Sono rimasto a qualche parola precedente. Quando dice che le cose negative come il falso, anche le cose negative come il falso ego, riposa nel Signore, cioè non ha senso combattere con un qualcosa di negativo, dobbiamo trascendere quindi un qualcosa di negativo come il falso ego. Cioè non serve opporsi a un qualcosa come il falso ego. È creato dal Signore per dovuto ai nostri desideri. Noi volevamo pensare di essere Dio, di essere il goditore, di essere dominatori, eccetera. Così Krishna ci dà questa illusione, questo falso concetto di noi stessi, falso ego, falsa identificazione, di avere un corpo, così possiamo giocare, soddisfare questo desiderio. Questo è il nostro desiderio, di rifiutare il Signore, ignorarlo, e cercare di imitarlo, Così Krishna ha creato questo concetto di falso ego, perché volevamo noi, era il nostro desiderio e ci ha soddisfatto questo desiderio, dando l'opportunità di creare questa identità, di essere, pensare di essere questo corpo. Il corpo viene dato da Krishna e così possiamo provare di imitare Dio, di essere, di soddisfare i nostri desideri di dominazione. E questo, non so se questa era la tua domanda. Sì, dicevo, non ha senso quindi andare a combattere in un certo senso contro queste cose, visto che tutto è parte del Signore. Combatteremo, finiremo. Ha senso di combattere nel senso di liberarsi dall'illusione, di liberarsi dal... Perché non è Krishna è contento che vogliamo allontanarsi da lui e non servirlo e non essere felice. Non è che lui è contento così, ma per il fatto che siamo, esistiamo come parte di lui con questa piccola indipendenza, ci è permesso di essere indipendente, di cercare di essere separati da lui. Ma lui, il suo desiderio è che torniamo con nostra libera volontà e ad amarlo. E così lui vuole che noi lasciamo, andiamo via da questa falsa concezione, falso ego, abbandoniamo questo falso ego e torniamo al nostro vero ego, nostra vera identità come suoi servitori, che l'amiamo il Signore. Questo è il suo desiderio. Ci lascia libero di scegliere di andare dall'altra parte. Sì. E così è la sua energia illusoria per dovuto al nostro desiderio di essere, di allontanarsi da lui. Ma il suo desiderio è che torniamo e che saremo felici. Non è che lui è contento di vederci soffrire qui nel mondo materiale, ma non ci costringe di amarlo. Ci dà la possibilità, la conoscenza di liberarsi da questo falso concetto e tornare ad amarlo. Quella scelta non ci toglie quella scelta, ci lascia sempre quella libera scelta. Altrimenti non sarà amore. Non sarebbe amore. Non si può amare con lo forzato. Una cosa forzata non è più amore. Sì, ma dicevo, non serve a niente combattere contro le cose negative, visto che tutto è parte del Signore, ma conviene trascenderle. Dobbiamo combattere nel senso di decidere con nostra libera volontà di allontanarsi dalla negatività e di andare verso la positività, di andarsi verso abbandono e servizio verso il Signore e allontanarsi dalle cose che ci lega alle energie materiali. Combattere in quel senso lì, decidere con nostra volontà di andare verso le cose positive e allontanarsi dalle cose negative. Questa è la nostra scelta. Dobbiamo utilizzare la nostra libera possibilità di scegliere. E i Veda, la conoscenza, ci dà l'informazione di qual è la scelta giusta, come andare verso la positiva e allontanarsi dal negativo. In quel senso. Grazie. Di combattere. Felice. Ammuta il microfono. Il microfono, non sento. Devi aprire. Scusate. Okay. Scusate, allora l'unica cosa che volevo aggiungere a quello proprio che hai detto tu è che spesso e volentieri le parole ci fanno più paura perché diciamo nel linguaggio odierno hanno preso una connotazione diversa, tipo servire Dio fa molto spavento perché vogliamo essere serviti noi, perché, storia permettendoci, questa parola ha una connotazione negativa, e quindi avendo la paura dell'aspetto negativo della parola, facciamo molta resistenza alla parola stessa più che al agire in sé, e quindi per tante volte, anche quando abbiamo l'intelligenza di comprendere che bisognerebbe servire, ci fa paura l'idea di dover servire quella persona e non me, e non è soltanto combattere, come si suol dire, ma anche accettare, come dire, accettare l'idea che servire non è brutto, non è che se tu servi sei insignificante, perché nel servizio tu stai mettendo il tuo amore, cioè quello che è per te più caro ci metti nel servizio, e quindi di conseguenza fa paura perché sembra che ti stai sminuendo. Grazie. Ok. Andiamo avanti. Guarda che sono le 9 qua. Ah, sì. Eh sì. Vedi, quando è interattivo va più veloce. Adesso cantiamo. Siamo riusciti anche a finire meglio. Piace di più quando è un po' più interattivo? Sì. Sì. Ci sono i voti alla fine? Eh? Ci sono i voti alla fine? Alla fine del libro? Anche. I voti su come era buona la pizza, no? Krishanghi! Questa volta devi offrire, Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Arriba! Arriba! Tutti su Zoom. Domani tutto su Zoom, sì. Così parliamo. Domani noi facciamo la Bhagavad Gita, la vigilia, non c'è modo migliore per passare la vigilia di Natale. La Bhagavad Gita. Ora? È uguale alle 8, sempre alle 8. Ma in Sicilia si fa il cenone il 24. Ma c'è il lockdown, non si può. Ma sono io con i genitori. Vai in casa. Domani non so se riesco. Vabbè, noi proviamo, poi la guarderete in differita. Sì, sì. Ottimo. Vedremo. Grazie mille, Krishna Lokatrai Prabhu, grazie mille. Grazie. Grazie a voi, grazie ai devoti. Arrivo, grazie. Shanghi, arrivo. Arrivo. Sì, aspettavo che chiudesse qualcuno, invece devo chiudere io. Arrivo. Arrivo. State ascoltando Radio Isvara. Radio Cucina. Ricette vegetariane lette in pochi secondi da Ramananda Das. Buon ascolto e Hare Krishna da Radio Isvara @gmail.com. Nuova ricetta di Ramananda Das qui su Radio Ishvara. Vi ricordo che potete scriverci radioishvara@gmail.com. Buon ascolto e Hare Krishna. Besciamella dark. Ingredienti: 250 ml di latte vegetale, farro, avena o soia al naturale, 2 cucchiai di farina nera con carbone vegetale, 2 cucchiai di olio di semi di zucca oppure extravergine di oliva, 1/4 di cucchiaino di dado in polvere, 1 pizzico di noce moscata, sale. Preparazione: versate una piccola parte del latte vegetale, circa 100 ml, in una pentola dal fondo spesso e accendete il fuoco a fiamma medio-bassa. Unite la farina e scioglietela nel latte servendovi di una frusta da cucina e, senza mai smettere di mescolare per evitare che si formino grumi, aggiungete il latte restante, l'olio, il dado, il sale e la noce moscata. Continuate a mescolare fino ad ottenere la consistenza desiderata. Per acquistare i libri esclusivi di Manonath Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. Devam Sri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Sri Vishakhandita Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna. La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte prima, il capitolo intitolato Questa grave ora di necessità. E vediamo Srila Prabhupada in un quartiere della vecchia Delhi, chiamato Cipiwada. Le anguste strade portavano ad altre anguste strade. Strade così strette che i balconi del secondo piano distavano solo pochi centimetri dal lato opposto della strada e in pratica formavano un tetto sulla via, tanto che i pedoni potevano soltanto intravedere limitati pezzetti di cielo. Era quasi impossibile distinguere i cortili privati, i negozi e i vicoli non potevano quasi essere distinti dai passaggi pubblici, benché la maggior parte dei negozi avesse insegne in hindi con il sottotitolo in inglese. In altri era cosa comune vedere scritte curvilinee in arabo e donne vestite di nero con il volto velato. Nel cuore di questa intensa vita cittadina vi era lo stretto ingresso del tempio di Radha Krishna, di Krishna Pandit, sovrastato da una piastra a rilievo dell'essere celeste Ganesha e animato dal frastuono dei piccioni che avevano fatto il nido proprio sopra la porta dell'arco. Il tempio, con le famiglie che vi si risiedevano, risentiva un po' dell'atmosfera delle case e degli intorni. Benché la sala del tempio fosse buia, le divinità di Radha Krishna sull'altare erano ben illuminate. Radharani era candida come la panna, mentre Krishna, alto 60 cm, era di marmo nero. Era ornato di puntini di fresca polpa di sandalo e aveva la fronte spalmata di polpa di legno di sandalo giallo. Entrambe le divinità indossavano abiti di seta. Al secondo piano, proprio sopra la stanza delle divinità, vi era una stanza per gli ospiti. La stanza di Bhaktivedanta Swami. Le pareti di cemento e il pavimento erano completamente spogli. Una piramide di argilla alta 90 cm si ergeva dal pavimento per indicare che le divinità erano situate nella stanza sottostante, proprio in quel punto. Presto Bhaktivedanta Swami si accorse che la sua stanza non era isolata, ma era adiacente ad altre stanze di residenza. Fuori dalla porta, una gratta di metallo più piccola di quella del tempio di Vamsi Gopalaji e del Kesavaji Math lasciava intravedere il piccolo cortile sottostante. Dal tetto a fatica si poteva vedere un unico albero. Si vedevano le cime dei tetti delle case così strettamente legate insieme tanto che sembrava si potesse camminare di tetto in tetto fino alla colossale Jama Masjid. Le tre ampie case della moschea, circondate da minareti più alti, si elevavano al di sopra delle costruzioni ordinarie e attraevano a frotte i piccioni che erano appollaiati sulle case e volando disegnavano ampie ruote nel cielo. Krishna Pandit indossava un leggero soprabito di cotone nero, del genere reso noto da Pandit Nehru, e portava anche il berretto caratteristico di Nehru. Parlava un buon inglese ed era loquace. Nel circondario era ben conosciuto e rispettato. Considerava Bhaktivedanta Swami un inviato di Dio, un sadhu, che si prendeva cura di lui, dimostrando così ancora una volta la compassione caratteristica della cultura hindu. Trovava piacevole il suo nuovo ospite, un semplice, gentile, misericordioso e colto, studioso Vaishnava. Krishna Pandit affermò di aver capito l'importanza della missione Sanatana Dharma di Bhaktivedanta Swami e la sua esigenza di avere un ufficio a Delhi e fece il voto di rifornire il suo ospite di tutto ciò che gli serviva. Sebbene Bhaktivedanta Swami fosse riluttante a chiedere qualcosa per sé, Krishna Pandit portò una stuoia per sedersi a un tavolo basso e lo pose dinanzi alla piramide. Portò anche un materasso. Mostrò a Bhaktivedanta Swami il modo di usare l'unica lampada della stanza, una lampada e un paralume di metallo retto da un cordone, che poteva essere alzato e abbassato con la mano. Portò un quadro di Radha e Krishna, che era stato donato al suo guru dal Maharaj di Jaipur e lo sistemò in una nicchia della parete. Sentendosi soddisfatto al pensiero che Bhaktivedanta Swami avrebbe potuto contemplarlo con gli occhi di un vero devoto. Bhaktivedanta aveva voluto assicurarsi un luogo per scrivere i libri prima di andare in Occidente e Krishna glielo aveva fornito. Ora egli poteva lavorare sia a Vrindavana sia a Delhi. Quasi immediatamente incominciò di nuovo a scrivere. il Back to Godet, con l'intenzione di pubblicare a puntate brani scelti dai suoi precedenti manoscritti. E contemporaneamente iniziò lo Srimad Bhagavatam. Quando Krishna Pandit venne a conoscenza delle solitarie lotte di Bhaktivedanta Swami per produrre il Back to Godet, desiderò spontaneamente aiutarlo per alcuni aspetti economici della pubblicazione. Bhaktivedanta Swami era veramente grato a Krishna Pandit per il suo sincero aiuto e in segno di apprezzamento fece un'aggiunta al suo nome, Hari Bhaktanudasa, colui che serve il devoto del Signore. Dopo 6 mesi di residenza a Cipiwada, Bhaktivedanta scrisse un elogio sul libro degli ospiti del Tempio. Sono soddisfatto di vivere qui a Delhi, dove sono arrivato dal mio quartier generale, l'1-89. Keshigat Vrindavana UP, esclusivamente per la missione spirituale di diffondere il culto del servizio devozionale del Signore. Sono oltremodo compiaciuto di ricordare qui che Sriman Sri Krishna Sharma, Hari Bhaktanudasa, mi ha provveduto di una stanza adatta per la mia attività letteraria. Sto pubblicando in lingua inglese un giornale quindicinale intitolato Back to Godet. In questa residenza e il Nawal Prem Sabda, di cui Sri Krishnaji è il segretario onorario, sta organizzando per me lezioni giornaliere sullo Srimad Bhagavatam. Conoscevo anche late Pandit Jyoti Prasad Sharma, padre di Sri Krishnaji, e nel corso della sua vita, tutte le volte che sono venuto a Delhi, egli mi ha provveduto di un posto per risiedere. Anche il suo buon figlio segue le orme del nobile padre, segretario del Nawal Prem Shabba, e sta svolgendo un buon servizio nel diffondere il Ramanama in tutta la città. In una chiara scrittura inglese, Bhaktivedanta Swami aggiungeva che, secondo la sua opinione, i templi dovrebbero essere usati esclusivamente per educare il pubblico nei valori spirituali e che la missione personale consisteva nell'organizzare templi destinati a questo servizio. I templi non sono destinati ai capofamiglie ordinari impegnati soltanto in argomenti relativi alle tendenze animali dell'uomo. A coloro che sono veramente impegnati nel servire la divinità del Signore, colui che domina sul tempio, è concesso di risiedervi, altrimenti non è concesso. L'importanza di non usare il tempio come abitazione gli si era rivelata mentre cercava di comporre lo Srimad Bhagavatam a Cipiwada, circondato da famiglie spesso rumorose con abitudini domestiche non devozionali. Nonostante il suo progetto di dedicarsi all'opera monumentale di tradurre lo Srimad Bhagavata, Bhaktivedanta Swami era pronto a predicare anche in altro modo. Nell'ottobre del 1959 aveva letto per caso una notizia in un articolo sul giornale The Times of India. 2 scienziati americani avevano ricevuto il premio Nobel per la fisica per aver scoperto l'antiprotone. Secondo una delle affermazioni fondamentali della nuova teoria, l'articolo diceva: potrebbe esistere in un altro mondo o un antimondo costituito di antimateria. Questo altro mondo faceva ricordare a Bhaktivedanta Swami l'eterno mondo spirituale descritto nella Bhagavad Gita. Egli era ben consapevole che gli scienziati non stavano parlando di antimateriale nel senso di eterno e spirituale, ma pensava di usare i loro termini scientifici per attrarre l'interesse delle persone di mentalità scientifica. Egli concepì un saggio che presentava la scienza teista della Bhagavad Gita in termini di particelle di antimateria e di mondo antimateriale. Era il tempo in cui il mondo intero stava parlando di viaggi spaziali. 2 anni prima i mezzi di comunicazione di notizie indiani avevano parlato dello Sputnik russo e la gara spaziale aveva avuto inizio. Impadronendosi dell'interesse allora corrente verso i viaggi spaziali, Bhaktivedanta Swami spiegò che l'anima, grazie al Bhakti Yoga, può viaggiare al di là degli estremi limiti dello spazio, verso i pianeti eterni del mondo spirituale, dove la vita è piena di felicità e di conoscenza. Dette le sue fresche traduzioni della Bhagavad Gita, espresse nel linguaggio dei nuovi fisici, quali particelle di antimateria e mondo antimateriale. Il lavoro completo, Easy Journey to Other Planets, era un manoscritto di 15.000 parole che egli mostrò a Itzaran Sharma del Radha Press. Egli però non disponeva di sufficiente denaro per stampare il piccolo libro. Nel febbraio del 1960, Bhaktivedanta decise di stamparlo in 2 puntate sul Back to Godhead. Gli articoli suscitarono la risposta immediata di un fisico dell'Università del Gujarat ad Ahmedabad, Mr. E.J. Naik, che aveva ricevuto il Back to Godhead per posta. Il dottor Naik pensava che l'applicazione di Bhaktivedanta Swami del principio di antimateria era in realtà importante. Non vi sono dubbi che sia un saggio classico. Il dottor Naik aveva interesse per un'ulteriore discussione sulla fisica e sulla conoscenza trascendentale e Bhaktivedanta rispose con uguale entusiasmo, chiedendo infine al fisico di unirsi a lui nel distribuire l'eredità culturale dell'India al mondo intero. Convinto che tale saggio aveva un grande potenziale per interessare i lettori colti di lingua inglese, Bhaktivedanta Swami lavorava duramente per raccogliere donazioni per la stampa di Easy Journey to Other Planets, in edizione economica. Infine poté realizzarlo sul finire del 1960, una prefazione del dottor N. K. Siddhanta, vice cancelliere dell'Università di Delhi, arrivò in ritardo ma fu inclusa nel libro nella forma di inserto. Benché tutti possano trarne profitto, si raccomanda in modo particolare alla comunità di studenti di leggere con attenzione il libro e di praticare il Bhakti Yoga, che aiuterà a rendere più forte la mente e a costruire il carattere. Sarò lieto di vedere che quest'opera è letta sia dagli studenti sia dagli insegnanti. Alcuni scienziati indiani e studiosi contribuirono all'analisi rilevando la visione scientifica e insieme spirituale e il metodo per superare i limiti dello spazio non con un'accelerazione meccanica di velocità ma con uno sforzo psicologico e con l'emancipazione spirituale. Erano soltanto 38 pagine, ma si trattava della prima pubblicazione, a parte il Back to Godhead. Il giornale di una sola pagina ripiegato. Egli cercò di distribuire il libretto in modo efficace, ne consegnò una copia al dottor P. Banerjee del Museo Nazionale di Nuova Delhi. Dottor Banerjee. Aveva l'abitudine di venire alla biblioteca e di consultare alcuni libri. Fu là che l'incontrai, mi dette un libro intitolato Easy Journey to Other Planets e me ne consegnò alcune copie da distribuire per 1 rupia o per 0.5 rupia l'una. sentii attrazione per lui. Pensai che era una persona santa, dotata di pura devozione e incurante del prestigio esteriore. Non voleva attrarre la gente per il nome o la fama. Si sosteneva ricevendo qualche piccolo aiuto da qualche persona, viveva solo in una piccola stanza a Cipiwada e si dedicava ai suoi studi. Così gli chiese: «Signore, se ha tempo e se non le dispiace vivere a casa mia, potrebbe gentilmente venire di sabato e recitare il Bhagavata da me». Egli acconsentì subito, era un valente studioso e conosceva bene le scritture e inoltre aveva interesse a comunicare agli altri le sue idee. Era un buon oratore e amava conversare, era molto gentile. Tutto ciò che diceva lo diceva con chiarezza, parlava in bengali e spiegava l'essenza dei versi. Di tanto in tanto faceva riferimento al commento al solo fine di darmi maggiori informazioni. Gli altri non erano molto interessati ai commenti o all'esposizione dei punti che presentavano maggiori difficoltà, ma poiché sapeva che io avevo compiuto studi in quel campo, spiegò i commenti per me o per uno o due gentiluomini molto colti. A queste riunioni tenute a casa mia presenziavano 20 o 30 persone ed egli continuava la sua spiegazione per un'ora o due. Recitava poi il mantra Hare Krishna, al quale anche noi partecipavamo con i karta e l'armonium. Era quindi una riunione piacevole perché egli era in grado di rendere facili le cose difficili e spiegava ogni cosa a tutti noi secondo le esigenze individuali. Sapeva che ciò era adatto per quelle persone, ciò che sarebbe stato compreso dall'altro e ciò che era per tutti gli altri. Dopo gli incontri di solito si riposava un poco a casa mia. Gli chiedevo di pranzare da me, ma lui diceva che non mangiava cibi preparati da altri. Quando però mia moglie lo incontrò e gli disse che sarebbe stata contenta di preparare il pasto per lui, egli rispose: «Va bene, verrò». Perciò generalmente lei preparava il pranzo di sabato quando egli doveva venire. Talvolta mi chiese come fare per attrarre un numero sempre crescente di persone verso questo campo di interessi. Tuttavia io, come funzionario governativo, non potevo fare opera di persuasione in modo molto aperto, né avevo il tempo di organizzare su vasta scala qualcosa per lui. Egli però non si sentiva soddisfatto e mi chiese se avessi potuto organizzare per lui qualcosa di maggiori proporzioni. Sapeva che le persone che partecipavano agli incontri in casa mia erano molto anziane, 70, 80, anche 90 anni di età, persone colte, in ritiro. Questi incontri si prolungarono per non meno di un anno. In seguito egli disse che voleva tentare di recarsi in altri luoghi. Mi chiese di continuare le riunioni, ma io risposi che non potevo perché non ero iniziato. Egli rispose che avrei potuto comunque perché ero nato in una famiglia di Brahmana e mi dette l'autorizzazione a continuare per qualche tempo. Io però non continuai, perché avevo l'abitudine di andare fuori. Dopo la sua partenza persi ogni interesse. Ero un servitore del governo. Easy Journey to Other Planets era stata una preparazione per il suo vero lavoro, quello di presentare lo Srimad Bhagavatam. Ora egli era ancora più convinto della necessità dei libri. Per predicare, egli avrebbe dovuto avere dei libri, ma soprattutto se doveva andare in Occidente. Con i libri poteva creare una rivoluzione spirituale. Vi era tanta letteratura in Occidente, ma gli occidentali non avevano libri di questo genere. Niente che potesse riempire il loro vuoto spirituale. Sebbene volesse dedicare il maggior tempo possibile allo Srimad Bhagavatam, decise di continuare la pubblicazione del Back to Godhead, stampando in forma di articoli i brani dei suoi libri manoscritti già esistenti. Occasionalmente però egli scriveva e pubblicava un nuovo articolo. In informazioni di rilievo scriveva: stiamo sforzandoci di impegnarci nell'umile tentativo di salvare l'essere umano con la propaganda del Back to Godhead. Non si tratta di una propaganda fittizia. Se esiste una qualche realtà, questa propaganda del Back to Godhead segna l'inizio di quell'era di realtà. In una civiltà atea, Bhaktivedanta Swami, riferendosi alle lamentele del primo ministro Nehru sull'abuso dei fondi pubblici in nome della religione, notava che per quanto esistessero esempi di capi religiosi implicati in offese criminali, se le statistiche fossero state messe a confronto con quelle dei truffatori della politica, questi ultimi sarebbero risultati certamente in soprannumero. Benché Pandit Nehru avesse il diritto di guardarsi dalla frode religiosa, l'ammonimento non avrebbe avuto l'effetto senza una profonda riforma delle istituzioni spirituali. E quella riforma avrebbe dovuto essere realizzata soltanto con la cooperazione dei capi di governo. Bhaktivedanta Swami citava una sua lettera in cui chiedeva al primo ministro Nehru di affrontare lo studio della Bhagavad Gita, ma egli informava i suoi lettori del Back to Godhead, Pandit Nehru non aveva mai risposto. A causa di questa mancanza di conoscenza spirituale, egli pensava che questa istituzione, la Lega dei Devoti, avrebbe potuto essere simile ai così immensi templi Emata che erano diventati causa di mal di testa per i Pandit. Bhaktivedanta Swami accusava Pandit Nehru di pensare che ogni organizzazione spirituale è un nucleo destinato all'accumulo di denaro pubblico da usare poi per scopi discutibili. Nehru però approva i cosiddetti sadhu che compiono un servizio sociale e dicono assurdità riguardo la scienza spirituale. Questo accade perché egli non ha profondità di conoscenza spirituale per se stesso, benché sia brahmino e pandita. Il fatto di ignorare la conoscenza spirituale è una caratteristica dei shudra o della classe lavoratrice. Egli chiese a Pandit Nehru di non temere la parola di Dio o Krishna. Noi possiamo garantirgli che non esiste tale causa di paura, perché Krishna è l'amico di ogni essere e è capace di dare un vero aiuto a tutti. Bhaktivedanta Swami concludeva suggerendo che quelle pratiche immorali non erano confinate soltanto nei templi dell'India, ma erano comuni alle civiltà materialistiche del mondo intero. In particolare citava l'agitazione tra i giovani che stava diventando violenta negli anni 60. La cosa migliore sarebbe stata quella di cercare un medico che curasse prima se stesso. A causa della civiltà atea, infatti, come i residenti dei templi e dei mata sono stati fonte di mal di testa per i pandit, per la medesima ragione altri, pur con differenti etichette, sono stati fonte di mal di testa per altri uomini politici europei e asiatici. Gli stessi sbrigliati ragazzi di quei paesi chiamati Teddy Boys in Inghilterra, Rebels Without a Cause in America, Alf Strong in Germania, Leather Jacket in Svezia, Children of the Sun in Giappone e Style Boys in Russia sono i sottoprodotti di una civiltà atea. Questa è la ragione di ogni mal di testa. Ciò richiede una cura radicale. A Cipiwada Bhaktivedanta Swami seguiva il medesimo programma giornaliero di Kashigata, con la differenza che ora era libero di dedicare un maggior numero di ore allo Srimad Bhagavatam, perché Krishna Pandit svolgeva in qualche modo la funzione di segretario per il Back to Godhead. Krishna Pandit racconta: era solito tradurre lo Srimad Bhagavatam prima dell'alba, circa alle 3 antimeridiane. All'inizio non possedeva una macchina da scrivere, ma poi egli poté procurarsene una portatile. Svolgeva il suo lavoro giornaliero e poi si cucinava il pasto. Si procurava sostanze crude per la sua cucina. Talvolta andava a casa mia e chiedeva a mia moglie un po' di cibo. Talvolta accadeva anche che facesse il bagno alle 5 o alle 6 del pomeriggio. Ogni giorno egli batteva macchina e leggeva un po' dello Srimad Bhagavatam. Scendeva nel tempio per il darshana e poi usciva e tornava alle 2 o alle 4 del pomeriggio. Di nuovo scriveva macchina e spediva le bozze del Back to Godhead. E poi le correggeva. Svolgeva tutte queste attività, ma la sua occupazione prevalente consisteva nello scrivere a macchina per molte ore al giorno. Bhaktivedanta Swami lavorava su un testo in sanscrito e in bengali del Bhagavatam, edito da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, e su un voluminoso libro che conteneva i commenti originali di 12 grandi acharya. Seguiva una forma standard, faceva la traslitterazione in caratteri romani dei Devanagari, scritti in sanscrito, poi dava la traduzione letterale di ogni parola. Quindi traduceva in prosa inglese e infine dava la sua spiegazione per ogni verso. Prima di scrivere la sua spiegazione, tuttavia, egli consultava i commenti degli Acharya in particolare quelli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, di Visvanatha Chakravati, di Jiva Goswami, di Vijayadvaja Tirtha e di Sridhara Swami. Egli contemplava le dimensioni del progetto in cui si stava cimentando. Il Bhagavatam comprendeva 18.000 versi. I 17 capitoli del primo canto avrebbero formato 3 volumi, di 400 pagine ciascuno. Il secondo canto, con i suoi 10 capitoli, sarebbe stato di 2 volumi soltanto. Per arrivare al nono canto sarebbero stati necessari circa 30 volumi. Il decimo canto, costituito di 90 capitoli, avrebbe richiesto 20 volumi, poiché i canti erano 12. L'edizione completa sarebbe stata di almeno 60 volumi. Pensava che forse avrebbe potuto concludere l'opera in 7 anni, se il Signore mi mantiene in buone condizioni. Allora concluderò questo lavoro per adempiere la volontà di Srila Prabhupada. Decise di iniziare il primo volume con le note biografiche del Sri Chaitanya Mahaprabhu, il predicatore ideale del Bhagavatam. Così il lettore avrebbe potuto apprezzare nel migliore dei modi il Bhagavatam, vedendone la dimostrazione pratica nella vita di Sri Chaitanya. L'aspetto caratteristico della presentazione di Sri Chaitanya era stato il suo desiderio che lo Srimad Bhagavatam fosse predicato in ogni angolo del mondo da coloro che avevano avuto l'opportunità di nascere in India. Sri Chaitanya aveva chiamato lo Srimad Bhagavatam il Purana senza macchia e aveva considerato il canto e l'ascolto dello Srimad Bhagavatam insieme con il canto del mantra Hare Krishna il metodo scientifico completo per sviluppare il puro amore per Dio. Lavorando sul commento di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati della Chaitanya Charitamrita, Bhaktivedanta Swami fece una sintesi di 50 pagine della vita di Sri Chaitanya e del suo movimento del Sankirtan. Descrisse le divine estasi di Sri Chaitanya, le sue dissertazioni filosofiche con gli studiosi più importanti dell'epoca e la sua istituzione del movimento del Sankirtan. Il canto congregazionale del Santo Nome. In particolare, Bhaktivedanta Swami collegò la vita e gli insegnamenti di Sri Chaitanya con ciò che vedeva in quel momento storico cruciale. In questa grave ora di necessità, l'aiuto per il genere umano risiede nella letteratura vedica e in particolare nello Srimad Bhagavatam. Sappiamo che gli invasori stranieri dell'India hanno fatto a pezzi alcune delle monumentali opere di architettura dell'India, ma essi non sono stati in grado di spezzare i perfetti ideali di civiltà umana, tenuti così a lungo nascosti nella lingua sanscrita della saggezza vedica. La lingua sanscrita ha protetto il segreto per migliaia di secoli, ma ora il segreto deve essere consegnato al mondo. Avvicinandosi ai primi versi dello Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami si immerse nel significato del Bhagavatam. I versi chiarivano che soltanto il Bhagavatam avrebbe potuto salvare la società dalle influenze demoniache dell'età di Kali. L'unica raccomandazione dello Srimad Bhagavatam per quest'era era quella di ascoltare i puri devoti che parlano di Krishna, Dio, la persona suprema. Lo scenario dello Srimad Bhagavatam era la riunione dei saggi a Naimisharanya avvenuta 5.000 anni fa, all'alba della presente era di Kali. Prevedendo la degradazione dell'umanità, i saggi chiesero al membro più anziano dell'assemblea, Sutta Goswami, «Ora che Sri Krishna è il rifugio di tutti i principi religiosi, è tornato alla sua dimora spirituale, dov'è possibile trovare i principi della religione?» Sutta rispose che l'epopea dello Srimad Bhagavatam, che splende come il sole, era l'incarnazione letteraria di Dio e avrebbe dato le direttive alle persone perdute nelle dense tenebre del Kali Yuga. Prima di dare inizio allo Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, in seguito all'istruzione del suo maestro spirituale, Narada Muni, si era seduto ed era entrato in profonda meditazione. Immerso in quello stato meditativo, vide Dio, la persona suprema, la sua energia e le anime sofferenti del Kali Yuga. Vide anche il rimedio per le loro sofferenze, era il puro servizio devozionale. Grazie a questa visione e alle istruzioni del suo maestro spirituale che lo avevano ispirato, Vyasadeva cominciò a compilare lo Srimad Bhagavatam per portare il beneficio più alto alle anime sofferenti del Kali Yuga. Nel presentare l'incarnazione letteraria di Dio, lo Srimad Bhagavatam, destinato al beneficio del mondo occidentale, Bhaktivedanta Swami realizzò che stava svolgendo un compito importante, seguendo le orme di Srila Vyasadeva. Come Srila Vyasadeva aveva avuto una visione di Krishna e aveva ricevuto le direttive del suo maestro spirituale prima di dare inizio alla sua missione, così Bhaktivedanta Swami aveva avuto la sua visione e aveva ricevuto istruzioni dal suo maestro spirituale, Bhaktivedanta Swami. Bhaktivedanta Swami ebbe la visione della massiccia distribuzione del libro di Srila Vyasadeva. Non doveva limitarsi a tradurlo, doveva portarlo di persona in Occidente, presentarlo e istruire le popolazioni dell'Ovest, attraverso i libri e in persona, sul modo di sviluppare il puro amore per Dio. Srila Prabhupada racconta. Il Partito Comunista è diventato popolare per il semplice fatto che distribuisce la sua letteratura. A Calcutta gli agenti comunisti invitano gli amici e leggono i loro libri. I russi non sono mai venuti in India, tuttavia, distribuendo i libri in ogni lingua, hanno un gran numero di seguaci. Se ciò è possibile per una letteratura ordinaria e mondana, perché la letteratura trascendentale non dovrebbe creare devoti in tutto il mondo? Occorre una grande potenza per spingere questa letteratura con grande vigore di villaggio in villaggio. Il Bhagavad Dharma è la religione originale della società umana. Qualunque altra cosa che sia fatta passare per religione deriva dalla letteratura vedica. Gli uomini vanno in cerca di questi libri, aspirano ad averli. Sri Chaitanya disse che in ogni città e in ogni villaggio sulla superficie del globo il messaggio del movimento del Sankirtan sarebbe stato conosciuto. Il che significa che in ogni città e villaggio, da un capo all'altro del mondo, sono numerosi candidati in attesa di questo messaggio. Questa è letteratura trascendentale, nessuno può sfidarla. Quest'opera è così bella, priva di ogni macchia, il Purana Immacolato. Bhaktivedanta Swami aveva riposto la sua fede nello Srimad Bhagavatam, abbandonando quasi tutte le altre forme di attività missionaria. Ciò era dovuto al consiglio e all'esempio del suo maestro spirituale di Sri Chaitanya. Essi non avevano mostrato interesse per la costruzione di costosi templi o per fare un gran numero di discepoli neofiti. Srila Bhaktisiddhanta aveva posto l'accento sulla predica. Predicare significa libri, e il miglior libro era lo Srimad Bhagavatam. Scrivere e pubblicare il Bhagavatam allo scopo di illuminare la popolazione equivaleva a servire veramente il Signore. Questa era l'opinione di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Egli aveva preferito pubblicare libri che stabilire templi e aveva chiesto in modo esplicito ai suoi discepoli di scrivere libri. Scrivere libri, stamparli e distribuirli su vasta scala era compito di devoti avanzati e investiti di potere. Il programma di distribuire letteratura trascendentale in ogni luogo, con una perizia superiore a quella dei comunisti, avrebbe creato un grande effetto positivo sugli europei e sugli americani. E se questi si fossero orientati verso la coscienza di Krishna, allora il resto del mondo avrebbe seguito. Bhaktivedanta Swami continuò a lavorare da solo nella sua stanza a Cipiwada, assorto nel pensiero di diffondere le notizie di Krishna a un livello che non era mai stato tentato prima. Talvolta egli si domandava come gli occidentali, che si erano a tal punto allontanati dalla cultura vedica, avrebbero potuto adottarla. Essi erano mleccia, mangiatori di carne. Quando uno dei suoi confratelli era andato in Inghilterra, il marchese di Zetland, sentendo citare le quattro proibizioni relative a una vita colpevole, aveva riso con disprezzo. È impossibile, ma lo Srimad Bhagavatam parlava di per sé. Sri Krishna, la persona suprema, che è anche il Paramatma nel cuore di ogni essere e il benefattore del devoto sincero, purifica il desiderio di piacere materiale nel cuore del devoto che ha sviluppato il desiderio di ascoltare il suo messaggio. In se stesso virtuoso quando è cantato e ascoltato in modo corretto. Sebbene fosse noto come predicatore di lingua inglese, Bhaktivedanta Swami sapeva che la sua presentazione in quella lingua straniera risentiva di molti errori e non vi era redattore che potesse correggerli. Tuttavia tali errori tecnici non lo trattennero dallo stampare lo Srimad Bhagavatam. Quest'idea era stata anche presentata nei capitoli di apertura del Bhagavatam. La letteratura che ci dà la descrizione completa delle glorie trascendentali del nome, della forma, della fama, dei divertimenti e di tutto ciò che si riferisce al Signore Supremo e illimitato è una creazione differente di lessico trascendentale, destinato a diffondere una rivoluzione nella vita empia caratteristica di una civiltà del mondo mal diretta. Tale letteratura trascendentale, anche se irregolarmente composta, è ascoltata, cantata e accettata dagli uomini purificati che sono profondamente onesti. Bhaktivedanta scriveva nella sua spiegazione: sappiamo che il nostro tentativo di presentare questa grande letteratura, letteratura che trasmette il linguaggio trascendentale destinato a risvegliare la coscienza di Dio negli uomini in generale, allo scopo di rispiritualizzare l'atmosfera del mondo, è disturbato da molte difficoltà. La nostra capacità di presentare l'argomento in un linguaggio adeguato, specialmente in una lingua straniera, certamente verrà meno e vi saranno molte imperfezioni, malgrado il nostro tentativo di presentarlo in modo corretto. Siamo però sicuri che, pur con tutti i nostri errori a questo riguardo, la serietà dell'argomento sarà tenuta in considerazione e i leader della società lo accetteranno, tenendo conto che si tratta dell'onesto tentativo di glorificare il grande onnipotente di cui oggi abbiamo tanto bisogno. Quando in una casa è divampato il fuoco, gli inquilini della casa escono per chiedere aiuto ai vicini, per i quali essi forse sono estranei. Tuttavia, pur senza un linguaggio adeguato, le vittime del fuoco si esprimono e i vicini capiscono la loro esigenza, benché essa non sia stata espressa nel migliore dei modi. Il medesimo spirito di cooperazione è richiesto quando si tratta di diffondere questo messaggio trascendentale dello Srimad Bhagavatam nell'intera contaminata atmosfera dell'attuale situazione mondiale. Dopotutto, essa è una scienza tecnica di valori spirituali e in quanto tale, ciò che ci interessa è la tecnica, non il linguaggio. Se la tecnica di questa grande scienza ottiene la comprensione degli uomini nel mondo, il successo è sicuro. Certamente il Kali Yuga presentava questo carattere di emergenza. La casa era in fiamme. L'uomo onesto che ne comprendeva l'esigenza accoglieva lo Srimad Bhagavatam, benché fosse presentato con tanti errori e tecnicismi linguistici scorretti. Bhaktivedanta Swami stava presentando lo Srimad Bhagavatam intatto, nel più profondo rispetto di Srila Vyasadeva. Questa era la sua virtù cardinale. Egli vi aggiungeva le sue realizzazioni individuali, ma non in uno spirito competitivo verso i precedenti maestri spirituali, nell'importantissima questione di presentare l'argomento seguendo rigidamente la parampara. Bhaktivedanta Swami non soffrì di errori e scorretti tecnicismi. Sapeva che senza la parampara le spiegazioni del Bhagavatam non avevano valore. Giorno e notte egli batteva a macchina sul suo tavolo sotto la piccola luce adattabile che penzolava con una corda dal soffitto. Sedeva su una piccola stuoia con la schiena appoggiata alla larga piramide che stranamente si alzava diritta nella nuda stanza. Egli teneva a posto le pagine che si accumulavano fermandole con pietre. Cibo e sonno, benché necessari, erano solo accidentali. Era pienamente convinto che traduceva ogni parola e dava ogni spiegazione con esigente attenzione e concentrazione. Tuttavia, bisognava concludere nel più breve tempo possibile. Nel febbraio del 1961, il giorno di Vyasa Puja, cioè l'anniversario dell'apparizione di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivedanta Swami era di nuovo a Vrindavana. In onore del loro maestro spirituale, alcuni discepoli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati si erano riuniti, avevano offerto fiori al ritratto del maestro e avevano tenuto il canto congregazionale nel tempio. Bhaktivedanta Swami però pensava che avrebbero dovuto fare molto di più. Avrebbero potuto pianificare e mettere in pratica in tutto il mondo la missione di predica che Bhaktisiddhanta aveva desiderato. Invece essi erano un gruppo di individui indipendenti, ognuno dei quali aveva la sua piccola idea, ognuno manteneva un piccolo centro o viveva in un centro, senza avere alcun programma mondiale e nemmeno un programma per l'India. Molti di loro non avevano progetti o visione al di là del mantenimento del loro corpo. Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva richiesto la presenza di un corpo dirigente per guidare il suo movimento, ma il corpo dirigente non esisteva e in pratica non vi era neanche il movimento. Alcuni che avevano aspramente lottato erano ancora in rotta e temevano che ogni improvviso tentativo di organizzarsi potesse soltanto fomentare le vecchie animosità. Almeno però potevano riunirsi e fare un'offerta al loro maestro spirituale.